America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, da New York Mario Platero. Un breve cenno alla conclusione dei lavori del G20 in Corea. Un accordo di massima è stato raggiunto per evitare di continuare lungo il percorso della guerra valutaria. L'accordo è di cercare di rispettare nei limiti del possibile tutte le norme già esistenti e di influenzarsi gli uni con gli altri senza scendere più decisamente sul sentiero di guerra, adottando cioè magari delle misure preventive, ad esempio delle tasse sull'importazione dei capitali, per contrastare i movimenti sulle valute che in questo momento stanno penalizzando a rialzo alcuni paesi esportatori e invece avvantaggiando al ribasso paesi come gli Stati Uniti, che vedono un dollaro sempre più debole. Ma oggi il tema centrale di cui vorrei parlarvi è la politica. Siamo a una settimana ormai dalle elezioni di metà mandato, elezioni importantissime per il Senato, difficoltà comunque ormai evidenti in tutti i sondaggi per i democratici. Over the past two years, we won a number of battles to defend the interests of the middle class. One of the most important victories we achieved was the passage of Wall Street reform. Avete sentito, il presidente Barack Obama ha lanciato un attacco duro di nuovo alle banche, ai sistemi finanziari, ai repubblicani che, secondo lui, nel momento in cui davvero vincessero queste elezioni, finiranno con l'eliminare alcune delle leggi che è riuscito faticosamente a passare, prima fra tutte quella per la riforma del sistema finanziario. È chiaro che il presidente si butta nello slogan politico, ma la storia non è esattamente così. Su 12 articoli approvati nella legge passata da Barack Obama ce n'erano una decina su cui i repubblicani erano d'accordo, un paio su cui erano meno d'accordo, di questi soprattutto uno, cioè l'Agenzia per la protezione dei consumatori. I repubblicani si preoccupano sostanzialmente di una cosa, cioè che il nuovo capo nominato da Barack Obama, Elizabeth Warren, finisca con l'applicare alla lettera tutte le regole contenute in questo passaggio della legge e che si vadano a mettere degli ostacoli al credito al consumo al di là di quelli necessari per proteggere davvero, diciamo, i deboli, le persone anziane, coloro che davvero non si intendono di finanza e in passato sono state in effetti truffate da così banchieri, investitori, venditori privi di scrupolo. Questo è un male, ovviamente, di cui ci si deve liberare dappertutto. L'importante è però tuttavia non fare di tutta un'erba un fascio, e dunque nel momento in cui si pongono dei limiti al credito erogato con le carte di credito, al credito al consumo, a quello per l'acquisto delle auto oppure per l'erogazione di mutui, si rischia di andare a colpire l'economia americana in uno dei settori di traino principali, quello appunto del consumo, che rappresenta i 2/3 dell'economia. Per questo le banche sono preoccupate, per questo gli elettori stessi sono preoccupati. Eppure Obama va all'attacco di nuovo contro Wall Street. A dear friend of mine, so I want everybody to do right by her. San Francisco District Attorney Kamala Harris. Avete sentito di nuovo il presidente Obama al termine di un viaggio per 5 stati in cui ha cercato di arringare la folla, però il suo slogan di nuovo "Yes we can", diciamo, suonava un po' spento. Il presidente è in difficoltà perché i sondaggi più recenti, i sondaggi medi, quindi quelli che tengono conto dei più ottimisti e dei più pessimisti, danno 220 seggi certi alla Camera ai repubblicani e 178 seggi certi ai democratici. Restano dunque 37 seggi incerti. Cosa significa questo? Che anche se i democratici dovessero vincere tutti i seggi incerti, la maggioranza della Camera a questo punto passerà quasi certamente ai repubblicani. Anche al Senato la partita è complessa. Per i repubblicani è molto più difficile arrivare alla maggioranza perché, secondo i sondaggi più recenti, 48 seggi oggi sono già certi per i democratici, mentre 44 sono certi per i repubblicani. Vi sono 8 seggi incerti. Dunque, seppure sia possibile per i repubblicani fare dei passi in avanti importanti e dunque conquistare anche la maggioranza, resta molto difficile. Comunque, quello che succederà è che vi sarà una riduzione della maggioranza dei democratici, che garantiva al partito di Obama la possibilità di debellare l'ostruzionismo repubblicano. Risultato: i due partiti a questo punto dovranno dialogare. Questo potrebbe essere uno dei risultati positivi di queste elezioni. I spoke only with Clarence Thomas about the possibility of working at the... Excuse me. How did you get to Clarence Thomas? That is my question. I was introduced to him by a mutual friend. Ecco, per chiudere, vi ho fatto ascoltare una vecchia registrazione del 1991. Figuratevi, la voce maschile è quella di Joe Biden, che allora era capo della commissione giudiziaria al Senato, e la signora che sentite parlare è Anita Hill. Si discuteva di Clarence Thomas, accusato di aver compiuto qualche sgarbo sessuale nei confronti della signora. Clarence Thomas doveva essere confermato alla Corte Suprema degli Stati Uniti, il primo afroamericano a cedere alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Beh, tutto in qualche modo è stato archiviato, ma che succede? Che la moglie di Thomas, improvvisamente Ginny Thomas, decide di chiamare la signora Hill per chiederle di porgere le sue scuse per il modo in cui si era comportata durante questa audizione. Una chiamata che potrebbe sembrare strana se non fosse che Ginny Thomas è un attivista dei Tea Parties e dunque si è lanciata a corpo morto in questo movimento e ha cercato così di ricreare un po' di polemica pensando di portare acqua al suo mulino e dunque al mulino dei Tea Parties, che vi dico va fortissimo. Una chiamata comunque, questa della signora Ginny Thomas, con un ritorno di fiamma che ha bruciato sia lei che il marito. Perché? Perché all'improvviso si è fatta viva, proprio l'altro giorno, la signora Lillian McQueen, che era una ex fidanzata di Clarence Thomas, parliamo di 40 anni fa, ebbene ha raccontato e confermato che secondo lei il signor Clarence Thomas in realtà era un po' un signore che amava la pornografia, che amava, come lei stessa dice, un petto molto prominente e che così faceva battute sconvenienti per quello che era l'ufficio in cui lavorava allora, proprio l'ufficio che doveva occuparsi di perseguire violazioni di etiche sessuali. Dunque, anche per i Tea Parties, qualche problemuccio comincia ad emergere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. La cantante americana Taylor Swift, che ha appena 21 anni, ha già conquistato 5 Grammy Awards ed ha interpretato di nuovo la canzone dei Coldplay, Viva la Vita, in versione acustica. Ecco di Taylor Swift, Viva la Vida. I used to roll the dice, be the fear in my enemy's eyes. Listen as a crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I had the keys, next the doors were closed on me, and I discovered them. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.